ci tieni allo studio, lingue, equazioni, cloruro di sodio, lo so che fai tutto da sola, non copi e non bari, né a casa né a scuola, che risultati non sono niente male, sotto i ricci tu sì che hai sale, e mai ti manca quella qualità che salvi a chi è bravo, è l'umiltà, sì perché è brava, tu lo sei e come, e non ti sta bene la ruota del pavone, se c'è qualcosa da fare non ti ferma mai niente, e poi anche il prof tu parli decisa e convincente. Anna Maria, adesso che dirti con questa canzone?